Ah, che mangiata! Buonasera e benvenuti a tutti dal vostro Paolo De Paolo da Tutto Gol, la trasmissione che fa parlare di sé in tutto il mondo calcistico e anche ciclistico, diciamo. Sì, sì, al massimo ne parlano per di pigliana e di parenti di mulierti. Anzi, a proposito, vedi che l'ultima volta mi sono scordato a casa tua i mutanti di pelle, era frusta. Regista, non dire sciocchezze e mettimi in collegamento con il prossimo ospite, che è un controsenso, perché il presidente del Catanzaro si chiama Giuseppe Cosentino. Io non lo so come cazzo gli sarà capo una cosa del genere. Comunque, presidente Cosentino del Catanzaro Merda Calcio, ci sei? Sì, buonasera a tutti. Comunque, presidente, a noi ci lega una vecchia amicizia, possiamo anche confermarlo. Guarda, ti dico una cosa in Cosentino. Ma chi in cavolo t'ha mai visto? Va bene, va bene. Il presidente scherza. Comunque ti volevo chiedere una cosa sola. Ma chi in cazzo t'ha fatto fa? Ma come ti è venuto in mente? Ti chiama Cosentino e ti va con Catanzaro? Guarda, io penso che in un momento difficile come questo, con questa crisi internazionale e che tutti ridono di noi, penso che la figura del presidente di calcio sia anche quella di andare contro le mode e le frange del tifo. Comunque si senta che tu proprio sta dicendo le cose dal tuo profondo del cuore. Comunque, in definitiva, perché hai voluto fortemente il Catanzaro e non un Cosenza con qualche tempo? Ho voluto il Catanzaro perché Paolo io e trova una sistemazione, mica posso stare sempre guaglione, e mi inda a capo a posto. Se c'è un traduttore gentilmente che mi può dare una mano per sapere quello che ha detto, comunque amo capito. Ora fa la fogna. Comunque, per la squadra cosa intende fare? Chiami un figlio di Palanga. Paolo, un fao spiritoso che ho dovuto telefonare a spese mia e mi piglio puro in giro. Io chiudo a telefonata e ti saluto. Amici, purtroppo io non ci ho capito un cazzo. Comunque dobbiamo chiudere la telefonata. C'è una grande maleducazione, soprattutto a Catanzaro. Merda, vaffanculo.